America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Non so quanti l'avranno riconosciuto, ma questo è l'urlo della vittoria di Serena Williams, la grande tennista afroamericana che ha vinto gli Open di Roma domenica 19 maggio. Ecco, è un grande ritorno di questa straordinaria tennista, di Serena Williams, proprio adesso che si sono aperti i match di Roland Garros. Dunque, da qui ai prossimi giorni, alla prossima settimana, sapremo se Serena Williams riuscirà anche ad aggiudicarsi questo torneo. Devo dire, le prospettive sono piuttosto buone, perché pensate, a Roland Garros arriva imbattuta da 24 match e dall'ultimo Roland Garros, dunque da un anno a questa parte, ha perso soltanto 3 di 70 match in singoli che ha fatto, ha vinto 10 tornei, inclusi Wimbledon e le Olimpiadi. E, insomma, Serena Williams, Venus Williams e la sorella sono due miti dello sport americano. Pensate, Venus era diventata numero uno nella classifica WTA del 2002, ha vinto 14 finali del Grand Slam, 57 finali del WTA, 20 vittorie nel doppio, di cui 13 nel Grand Slam con la sorella Serena, ed è stata la prima tennista donna afroamericana a essere numero uno nella classifica dei tennisti mondiali. Sono le uniche giocatrici, queste due sorelle, ad aver partecipato a tutte le finali del Grand Slam, sia in singolo che in doppio. Ecco, dunque siamo sulla notizia. Direte voi, ma come, questo avviene in Francia, avviene a Parigi? Sì, è vero, avviene in Francia, però queste due sorelle sono un simbolo dello sport americano, soprattutto della possibilità di successo per due ragazze cresciute in un ambiente povero. Ebbene, proprio alcuni giorni fa c'è stata a New York una prima alla quale sono andato, e poi un party di celebrazione di questa prima per un documentario che è stato girato e presentato proprio sulla storia di queste due sorelle, Venus e Serena. What do you want to be when you grow up? Tennis player. I'd like to be a tennis player. Ecco, il documentario, devo dire, è molto interessante, è girato un po' come fosse un video music, perché è molto ritmato, molto rapido, molto veloce, e continuano a esserci dei flashback, il passato, il presente, e a un certo punto si vedono queste due ragazzine adorabili che avranno chissà forse 7 e 8 anni, perché poi hanno appena 16 mesi di differenza l'una dall'altra, carinissime, questi sorrisi dolcissimi, e qualcuno che gli chiede, che poi forse è il padre, gli chiede: ma cosa volete fare da grandi? E loro, vestite nella loro divisa da tennis, dicono: la tennista. Questa è la voce del padre che dice: beh, io le alleno, e loro sono molto determinate, e però non bisogna mollare un attimo. Ecco, sono documentazioni molto interessanti, perché poi alla fine questo documentario non è soltanto un documentario sulla storia di queste due ragazze che diventano le campionesse sportive, ma è la storia di quanto importante la loro carriera sia stata per l'emancipazione razziale americana, perché Venus, come vi dicevo, è stata la prima donna afroamericana a essere un campione, a essere il numero uno nella classifica mondiale. E andando avanti, ci sono dei momenti in questo documentario molto interessanti, le due sorelle non erano amate, insomma non c'erano delle donne di colore nel tennis mondiale, e dunque ci sono stati dei momenti di tensione. Però è proprio questa la storia nella storia di questo documentario di Make It Baird e di Michelle Major, cioè la storia di una vittoria nonostante tutti gli fossero contro. Un altro momento di questo documentario è quando le due sorelle sono riprese in cucina, perché, e questo me l'ha raccontato direttamente Make It Baird, che è una donna giamaicana molto bella, molto interessante, che ha filmato il documentario, ha ottenuto il permesso delle due sorelle, e le ha filmate in cucina mentre a un certo punto una di loro dice all'altra, dice: sai, ho deciso di sposarmi e probabilmente cambierò casa, perché avevano vissuto sempre fianco a fianco, sempre insieme, e la sorella reagisce e dice: ah, ma come, ma che bella notizia. E poi poco dopo c'è un momento di riflessione in cui dice: ma forse io mi troverò un po' sola. senza di te. E la Baird mi ha raccontato di come ha avuto accesso alla vita in famiglia di queste due ragazze, di queste due tenniste, ha potuto fare delle riprese davvero straordinariamente interessanti. Serena to me and along with Billie Jean, but when she's on her game she's the greatest player that ever played the game. John McEnroe è venuto anche lui a questo party, un party devo dire divertentissimo, perché c'erano 10 tenniste che avevano fatto un piccolo loro club che hanno ospitato questo party, e John McEnroe qui dice: Serena per me è formidabile, insieme a Billie Jean King è la più grande giocatrice di sempre, atleticamente spettacolare. Spero che questo documentario con le storie che racconta possa aiutare questo sport a cambiare. È vero, Billie Jean King ha iniziato a giocare sui campi pubblici, ma il tennis resta uno sport costoso ed è stato fuori dalla portata di troppe persone troppo a lungo. Spero che questo cambi. Ecco, sono messaggi che credo sono importanti anche per noi. She taught them a lot. They both were teaching on the courts all the time. Billie Jean King, anche lei era al party, dice: questo film è incredibile, vedere queste due donne, cosa hanno passato, cosa hanno dovuto sopportare, l'hanno fatto sempre con classe e con dignità, e grazie a loro questo sport, dice, è migliorato. Infine Serena vuole ringraziare tutti per l'appoggio che ha avuto. Il 2010 è stato uno degli anni più difficili della mia vita, dice, pensavo che la mia carriera sarebbe finita, guardo indietro e penso: ma come sono riuscito a tornare al numero uno dopo tutto quello che ho passato? Credo che quello che mi ha aiutato è stato mantenere un atteggiamento positivo, e sicuramente lo avrà in questi giorni al Roland Garros. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sempre difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, insomma, la dedico ovviamente a Serena Williams, alla sua perseveranza, determinazione, al suo ritorno al successo, della band Destiny's Child, Survivor. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.